L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Complimenti per il programma, vi seguo sempre, dalla mattina alla sera. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. C'ho le palle piene! Senza controllo sanitario. Ragazzi, ma in quale città del mondo? In quale città del mondo? Siamo al centro di Roma. Siamo al centro di Roma, un semaforo praticamente all'altezza di via Arenula. Andate a guardare i filmati che dove ci sono. C'è il ministero, sì. I filmati che ci sono su YouTube. Andate a vedere questi filmati. In quale città del mondo un gruppo di donne, sapete quello con la gonna lunga, un po' scurette in faccia, insomma, della comunità Rom, gonne lunghe, spazzoloni in mano per pulire le macchine ai semafori, e fin qui, vabbè, insomma, roba di ordinaria amministrazione di città italiane, no? Si avvicinano alle macchine per pulire i vetri. Ovviamente, come è normale che sia nel 99% dei casi, uno dice no, non voglio. Una di queste zingare si accorge del rifiuto legittimo di un automobilista romano e tira fuori il culo. Arriva davanti alla macchina e tira fuori il culo, amico mio, al centro di Roma, con la gente che guarda. No, pensavo tutto un racconto in cui dice tira fuori il coltello. No, te lo vuoi sedere. È normale. No, sicuramente non è normale. Temperanza, ma normale pure questo. No, che una zingara al centro di Roma, in pieno centro, alle 10 di mattina, al rifiuto di farsi lavare la macchina, di pulire la macchina, tira fuori il culo e ridendo se ne va, è tutto a posto. Non ne posso più. Quando vai in macchina, tu spesso, il tuo e un tuo generico, fai il dito medio quando qualcuno ti supera male, ti suona, eccetera. Che cazzo c'entra, è uguale. Quella, non avendo il dito medio da fare, ha fatto, è andata un attimino oltre. Siccome una persona non vuole farsi pulire il vetro, dalla signora Roma. Ma come lo stavi raccontando, sembrava che avesse tirato fuori la pistola. Che avesse tirato fuori un caricato, una Magnum 44 con 18 pallottole all'uranio. Se ti impoverito. Piace così, che gli zingari tirano fuori il culo al centro di Roma, così. Amico mio. Se ti ma piace ha tirato così. Fuori anziché il dito medio, ho sbagliato. A Roma anche ci vivi tu, ha io. Ha tirato fuori il sedere. A Roma ci vivi tu, io non ci vivo, per fortuna. Dal racconto sembrava Rambo. Qui a Milano non hai zingaros ai semafori, rubano, stuprano, droga e rock and roll, ma che discorso state a fare? Però io vorrei iniziare con un'altra cosa oggi, caro Parenzo, perché questa mattina, ore 9:30, 10, su Canale 5, e dico Canale 5, c'era ospite un tale professor Maurizio Bossi, sessuologo. Conosco benissimo il signor dottor Bossi. Allora, ti dico una cosa, ti ripeto, Canale 5, prima mattina. Dopo questa cosa qua io non voglio più rotture di coglioni. se a Canale 5 alle 10 di mattina parlano di queste cose qui, io posso parlare di qualsiasi cosa, anche persino di coprofagia, guarda, di qualsiasi cosa. Dopo questa cosa qua che ti farò ascoltare non voglio sentire più nulla, niente, non voglio sentire più nessuna critica, nessun appunto, nessuna cosa, oddio, scandalismi, eccetera, il linguaggio, niente. Professor Bossi, persona molto rispettabile, persona molto rispettabile, il quale tranquillamente, tranquillamente, senti, senti che cosa dice. No, una sola cosa, poi magari più avanti manderemo altro. Se tuo figlio ti chiede che cosa sono i profilattici, ti ripeto, prima mattina, Canale 5, prima mattina, Canale 5. Vabbè, professor mattina, sì. No, ma senti la risposta, perché è eccezionale, senti. Poche nozioni di tecnica, sorridendo, ridendo. Che cosa sono i profilattici, ti potrà chiedere tuo figlio. E tu cosa rispondi? I cerotti per il pisello di papà. Per me ovviamente è normalissimo, per me è normalissimo. Canale 5, sì. La mattina. Canale 5, la mattina. Cosa rispondi? I cerotti per il pisello di papà. Ma non è, non è l'unica. Beh, cosa. Anche, no, non è volgare effettivamente. Ma no, ma chi ha detto che è volgare? Chi ha detto che no, volgare? È molto, anzi, anche poi, beh, un bel modo per dirlo ai figli effettivamente. I cerotti, perché cerotti? Poi c'è una cosa, senti questa cosa qua. I tassisti, i parrucchieri, gli skipper sanno tutto del sesso delle donne. Ti ripeto, 9:30, 10, Canale 5. Interrogare i taxisti. Beh, i taxisti sanno tutto di sé, delle fantasie sessuali delle donne, perché quando due donne sono in taxi parlano e loro ascoltano. Beh, poi vabbè, anche dal parrucchiere col phone, dal parrucchiere anche... ma il terzo che sa tutto chi è? Chi? Skipper. Gli skipper, cioè i grandi esperti di sesso sono tassisti, parrucchieri e skipper. Ah, sì, beh, ma non è l'unica cosa, ma voglio andare avanti. Dopo proporremo altre cose. Restate con noi, so che restate comunque con noi, ma. Oddio, la mia amica Martani, mia amica, insomma, la mia conoscente Daniela Martani, vegana, come sapete, vegana, certo, protagonista di tante battaglie qui sui vegani, eccetera, eccetera. Dice che gli storni a Roma, siccome si candida per i Verdi, vado ai pazzi io, si candida per i Verdi. Dove al Comune di Roma? Beh, dico io, si candida con i Verdi al Comune di Roma, credo in appoggio a Giachetti, se non sbaglio, ma magari appoggiano, che ne so, Fassina. È ancora candidato Fassina a Roma? Signor Fassina? Sì, ancora però candidato. Di sì, non lo certo. So con chi cazzo appoggiano i Verdi, non me ne frega nulla. Comunque si candida nella lista dei Verdi a Roma. Gli storni a Roma sono un problema, gli storni a Roma, no? Enorme, si enorme. Devono uccidere. No, no, problema vero, oh no. Di guano alla stazione, poi un disastro. Ma questa è la cosa più clamorosa, no? La zanzara che la metti nel bicchiere. Forse la zanzara che la metti nel bicchiere, gli storni. Cioè la zanzara, ecco, la zanzara è il nome di questa trasmissione, no? Signora, tu hai di fronte una zanzara, cosa decidi di fare normalmente? La ammazzi, la schiacci, no? Senza dubbio. La prima cosa che senza mente... pensarci. No, ma una persona che ha un minimo di normalità. No, cioè, oppure prendo anche un bicchiere. Ma anche un pazzo come me, no? Anche no, un pazzo... no, prendo un bicchiere, se no prendo un bicchiere e la intrappolo nel bicchiere fino a quando non finisce l'ossigeno. Ma non c'è bisogno di fare questa roba qui. La schiaccia ed è bellissimo anche vedere, sai quel muro dove ci sono le macchiato di rosso. No, no, io ho avuto a casa mia, ti la giuro. Oppure no, la metto racconto... nel bicchiere e provo a portarla fuori, no, ad no, accompagnarla. Ma fuori questo, è quello che vogliono fare i vegani. Però aspetta un attimo. Allora, io ho avuto a casa mia il muro della mia camera da letto. Che è molto sporco. Molto molto sporco. Non ho mai fatto dipingere di nuovo da casa da 4 anni che sì, ci sto. Avrei dovuto far dipingere. Capisci che questa roba sporchissimo, fa schifo, è sporchissimo. Non lo dire con orgoglio, aspetta. Fa schifo. No, no, ma non me ne frega niente. Allora, c'è una macchia rossa che è una zanzara che avrò ammazzato un anno, che è ancora incrostata lì. L'incrostazione del sangue della zanzara. Ma che vita, che è così che bisogna fare, cazzo, con la zanzara. Invece la Martani vuole fare in un altro modo. Le zanzare tendono a ucciderle, se me le trovo in casa, le prendo un bicchiere, le metto dentro. Le zanzare, Daniela, le zanzare. Prende un bicchiere, le mette dentro, non le uccide, da Cusano Campus. Le traffic, purtroppo, vabbè, magari a qualcuno interessa, che dobbiamo fare. Quando sento il traffico divento pazzo. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Per non dimenticare mai, Gasparri non sapeva ieri sera, immagino oggi di sì, avrà letto i giornali o qualcos'altro, non sapeva chi era Prince. Senti, è morto Prince, conoscevi Prince? È morto Prince? No, questo mi fa uno scherzo. No, è morto Prince. Davvero? Non so chi siano. Ma come non sai chi è Prince? È vero, dai. Non sai chi è Prince? Non lo so. Ma non è vero. Dai, Maurizio, non sai chi è Prince? Prince. Ha fatto la birra, sicuro. Ma che la birra? Ma che... Non lo so. Allora, Prince, tra l'altro, oggi mi hanno mandato un sacco di foto. Te la ricordi la birra Prince? Sì, no? Sì, ho visto anch'io. Sì, che quella ha... con l'etichetta blu. Sì. Sì, che ha qualcosa di antico. Non credo sia più in circolazione la birra Prince. Non no, so. Non credo, non credo. Adesso, come al solito, un'azienda si incazzerà, mi chiamerà dicendo no, non è vero, eccetera. Comunque, no, non l'ho, io che sono un consumatore di birra, non mi pare di vederla negli scaffali dei supermercati. Prince era una birra degli anni Ottanta, l'antichità gasparriana, che non sapeva chi era Prince. Ora io dico, non sono un esperto neanche io di musica, no? Però Prince è un nome che mi risuona, due o tre canzoni, beh, le so, Prince, almeno il nome, no? Cantante, pop, Prince. Dai ragazzi, a Gaspar, è su. Allora, di politica non c'è quasi nulla, a parte il tormentone Bertolaso che continua, con lui che dice rilancio, sono ancora io il candidato, eccetera, eccetera. Berlusconi che non si decide a cedere alla Meloni and Company, perché è chiaro che se cede alla Meloni and Company un po' è sotto scacco, no? Sotto scacco del duo Salvini-Meloni, che pure non vanno nemmeno d'accordo tra loro. Però voglio farvi sentire quello che dice Salvini sulla sua grassezza, sul palco, credo. Credo sia sul palco, rivolto ad una signora. Questo è interessante, eh? Interessante. Sì signora, lo so che sono più magro di quello che sembra in televisione, non me lo deve ricordare, non è necessario. Andiamo a Roma, Samuele, vai, iniziamo, Parenzo, iniziamo con le battaglie, vai, vai. Apri le gabbie. Samuele, sì. Vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi. Senti, io volevo intervenire cortesemente sul problema, insomma, sulla discussione sui Rom, perché sono, diciamo, perennemente sul raccordo in fila e passo sempre all'altezza dell'aeroporto di Ciampino, no? Dove c'è il campo nomadi. Tutte le sere c'è un bel focolare, bello, un bel fumone nero, sì, a ridosso dell'aeroporto di Ciampino. Sì, sì, lo so, mi hanno mandato un sacco di foto in questi giorni, sì. Io pure, qui sono... Allora? Tu, Matteo da Novara, vai. Novara, niente, Giuseppe Parma, ragazzi, forza, Giuseppe Parma. Salve. Dimmi Giuseppe, salve dimmi. Salve a tutti. Allora, guardi, io volevo accogliere l'appello che ha fatto ieri, che voleva adottare un maiale, se non sbaglio, l'ho detto verso la fine della trasmissione. Sì. Ma guardi, io qua ho tutto il terreno necessario, poi anche un salumificio, se vuole, possiamo dare un nome a questo maiale, addirittura. Addirittura? Sì, e poi dopo possiamo anche decidere cosa fare, alla fine. Cioè, non ho capito, allora... Lei mi dice... Sì, io voglio adottare un maiale, voglio adottare un maiale, perché mi pare interessante la cosa. Che costo ha adottare un maiale? Allora, possiamo fare così. Il maiale costerebbe circa, diciamo, un prezzo d'ingrosso, 200 kg sui 500 euro. 500 euro? Un prezzo... Ma compreso anche il coso, compreso tutta la macellazione, poi la norcineria e tutto. Io posso fare questo... con tutto compreso, diciamo che un maiale invece all'ingrosso i macelli viene pagato sui 200 euro, non di più. Ma però quanti chili sono? Che cosa ci faccio con tutti quei chili di maiale? Che cosa ci... Può fare dei salumi, può scegliere che salumi fare, il culattello piuttosto che il prosciutto, la coppa. Eppure ma uno perché deve adottare il maiale? Questo però non capisco. Non è più semplice se io non mangio maiale, che uno vada in macelleria e si compra quello che cavolo vuole, arrivederci, lo grazie. So che non lei capisco. È ebreo, Parenzo, e non può mangiare gli no, animali con ma voi, spartita, ma chi se ne... l'unghia, sì, vabbè, l'unghia fessa, dai, ma non è importante questo. La cosa che mi fa è come se io dicessi io adotto una mucca, ma chi se ne frega, vado lì, mi prendo no, il ma l'adozione del maiale è semplicemente per dare un senso al fatto di avere un animale follia, che uno alleva secondo criteri, diciamo, sani, giusto? E poi questo vivrebbe all'aperto, sarebbe tutto diverso. Esatto. I maiali e poi però, ma tu li ammazzi i maiali anche, Giuseppe? No, non ho l'autorizzazione sanitaria, l'ho fatto, ma cioè peggio... È più pericoloso ammazzare un maiale abusivamente, diciamo, che ammazzare una persona a momenti. No, ma certo, ma come si ammazza un maiale? Tu li hai ammazzati? Ci sono diverse, sì. Ci sono diversi modi. Ma la cosa più indolore, più rapida qual è? Ma diciamo che la cosa più indolore, gli danno con una pistola apposta, non è una pistola che spara, esce un cuneo e poi sì. Dopo viene fatta la desugolarizzazione, che praticamente anche a livello sanitario la cosa migliore. Cioè un colpo di pistola alla testa, diciamo la verità, questo sì, è il punto. No, però viene ucciso realmente tagliando la vena giugulare, quello viene solo stordito. Sì, sì. Ah, stordito e poi vena giugulare tagliata. Sì. E questo anche per motivi sanitari. Molti ci considerano, Parenzo, da questo punto di vista, delle persone orride, semplicemente sì, perché... non è sbagliato. Non no, è sbagliato. Semplicemente perché descriviamo in termini normali, in termini crudi, quello che avviene nella realtà. Allora, chi mangia il maiale deve rendersi conto che succedono cose di questo tipo. Viene ammazzato in questo modo, bisogna rendersi conto. A me non me ne frega nulla. A me non me ne frega nulla. Che una volta qua a Parma, soprattutto, era una festa l'uccisione del maiale, verso... Ma lo so, ma guarda, io vengo da una famiglia in Umbria dove a novembre si ammazzava il maiale, io facevo lì poi dopo l'ammazzamento del maiale, vedevo tutto, eccetera, eccetera, facciamo un grande banchetto. Un grande banchetto a base di maiale con una salsiccia di fegato di maiale. Che erano gli uccisori del maiale, i tiranti, questi mastri. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao Giuseppe, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, vecchio mio. Allora, leggo oggi, caro Parenzo, che un carabiniere è stato condannato per avere fatto il suo dovere. Leggo sul quotidiano Libero. Sul quotidiano Libero. Un militare, un carabiniere, aveva sparato a un ragazzo di 17 anni, non so se ti ricordi, a Napoli, che non si era fermato a un posto di blocco. Ah, certo. La famiglia facemmo di questo... anche una diretta da là, se ti ricordi, no, tanto tempo fa. No. Mi ricordo perfettamente. Questo qua erano in tre sul motorino e lui senza casco. Questo carabiniere che ha sparato, poi ci sono diverse ricostruzioni di questa vicenda, la famiglia ha fatto tutte inchieste parallele, eccetera, eccetera, ha preso 4 anni e qualche mese per avere sparato, carabiniere, a un tizio che non si era fermato a un posto di blocco. Ora ragazzi, diciamo la verità, se uno in tre sul motorino non si ferma a un posto di blocco e quello spara, come si può rimproverare il carabiniere? Come si può rimproverare il carabiniere? 4 anni. La famiglia. 4 anni, ma c'è un motivo perché 4 anni, non 15, 10, per 8, omicidio, 9. Per omicidio colposo. Appunto, per omicidio. Vabbè, quello è chiaro. 4 anni per omicidio colposo. Però vi dico, uno in tre, senza casco, posto di blocco. C'era voce, giravano voci su un latitante che girava da quelle parti lì. Napoli. E dai. Michele, provincia di Pescara, vai. Ciao ragazzi, volevo parlare subito del discorso di ieri sera, quel ragazzo che ha telefonato che ha sposato una puttana. Sì, sì. Ah, consapevole di aver sposato una puttana. Sì, come no? Ma consapevole, certo, non è che uno è inconsapevole. Ha scelto, la frequentava prima da prostituta e poi se l'è sposata. Sei innamorato. Vai, la domanda è questa: quanti sposano una puttana e non lo sanno? Questa è buona, eh? Questa è buona. Cioè, tu questo dici, è l'aforismo del 18:55. Questa è buona, questa è buona. Tu dici, la realtà è che alla fine il risultato è lo stesso, magari alcuni. Però io il termine puttana non lo utilizzerei, perché sai, è un po' maschilista. Una zoccola, dai, una zoccola. Sì, però amico mio, se tu vai, qui c'è la solita presa in giro, se tu vai con le donne non sei zoccolo, non sei puttano, sei un gran figo. Invece quando lo fa una donna è zoccola, puttana, eccetera, eccetera. Sbagliatissimo, sbagliatissimo. A dopo. Lasciati un parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Giù le mani da Cruciani. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 0024, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top. Ciao ragazzi, niente, volevo parlare subito del discorso di ieri sera, quel ragazzo che ha telefonato che ha sposato la puttana. Lui è consapevole di aver sposato una puttana, bravissimo. Quante, la domanda è questa, quanti sposano una puttana e non lo sanno? Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Allora, io trovo incredibile, caro David, trovo veramente incredibile che cosa? Che si discuta delle cuffiette della musica che viene sentita ad alto volume e dei danni che questa cosa può procurare, perché uno è disattento e può finire sotto un treno. Come ha ragione il professor Crepè, mi pare sia stato lui ad aprire le danze. Il professor Crepè ha detto una stronzata, ha detto una grandissima stronzata, no, cioè le cuffie e gli smartphone uccidono più dell'alcol o della droga. Ci sono molti ragazzini che ad esempio vanno in motorino con il casco e ascoltano la musica mentre vanno. Pericolosissimo. Sì, vabbè, d'accordo, non fare adesso queste prediche. No, ho sentito, è una constatazione, non è una predica. Capito, ma è successa un'altra cosa. Non è successo che qualcuno... È successa una tragedia. Ma è successa un'altra cosa di una ragazza. Travolta. Ma ho capito, ma è stata travolta da un treno ad alta velocità in una stazione, ha attraversato i binari, sì, mentre era distratta, poverina. Ma ho capito, ma non è la stessa cosa di andare in motorino, sono cose ridicole. Allora, tutto nasce dal fatto che questa ragazza bellissima, una modella, eccetera, è distratta dalle cuffie, forse perché ancora non lo sappiamo, dalle cuffiette, eccetera, dalla musica, la mattina presto finisce sotto un treno ad alta velocità. Nasce una discussione surreale, una discussione con tanto di editoriali sui figli, la preoccupazione per i figli, le madri preoccupatissime. Ho letto oggi su Repubblica un pezzo della signorina Concita De Gregorio preoccupata per quello che può succedere, eccetera, eccetera. Che è assurdo, che non ha nessun senso logico. Questa è morta perché si è distratta mentre attraversava un binario con i treni ad alta velocità. Ad alta velocità. Cosa diavolo c'entra? Oh, ieri è rispuntato il signor Vassallo, signor Vassallo, il nostro animalista preferito, il nostro vegano preferito, alle iene, hanno fatto un servizio su quello che è successo qualche giorno fa qui di fronte al Sole 24 Ore, ma sentiamo questo scontro che si è svolto qualche giorno fa qui davanti, Vassallo Cruciani. Non vorrei più parlare dei vegani finché non c'è qualcosa di serio, finché non c'è qualcosa di concreto, come per esempio la candidatura a Roma di una vegana fondamentalista, nazi vegana, come la signora Daniela Martani. Beh, nazi, lei magari nazi vegana, no, nazi, fondamentalista. Lei non è nazi, se non è nazi vegana lei, io sono, cioè, Hitler in persona. Dai. No, nazi vegani sono quegli altri lì, come si chiamano, no, di fronte. Lei pure. Senti Vassallo Cruciani, senti. Ah, eccolo qua. Eccolo, Vassallo. Vassallo, come stai? Ragazzi, non posso lasciare l'intervista adesso. Come non puoi? Ti devo ringraziare umilmente. Bene, grazie. Grazie a tutti gli animali. Dopo essere stato sputtanato in tutta Italia per i panini, per la madre, eccetera. Hai ancora il coraggio di parlare? Sì. Cioè, questo abbiamo ancora usato parla. La tua arma, sì, per farci visibilità e parlare, bravo, degli animali, bravo, che muoiono. Bravo. Tu hai avuto la tua visibilità, no, perché se no decadevi. Non ho bisogno, perché sei un fallito, no, e basta. Sì, bravo. E noi ti abbiamo dato un po' di visibilità. Tu sei un genio. Sì, vabbè, sono un genio. Beh. Mi serviva solo l'idiota che ci dava la possibilità di usare un microfono. Hai detto per l'ennesima volta le due minchiate dopo essere stato sputtato in tutta Italia. Okay. Beh, era stretta di mano, dai. Ha dato del pedofilo, stretta di mano. Ci vediamo in tribunale. A proposito di pericolosità delle cuffiette, della musica, eccetera, è ovvio che se uno si isola dal mondo c'è sempre un pericolo all'orizzonte, no? Ma questo mi sembra scontato, che siano le cuffiette, che sia la distrazione in quanto tale, che sia stare al telefonino, mille altre cose che procurano oggi distrazioni. Però viviamo in questo mondo e non ci possiamo fare niente, ci possiamo affidare al culo, alla fortuna, a un minimo di concentrazione. No. A un minimo di concentrazione. Basta ogni... prendere delle precauzioni. Sì, alle d'accordo, volte, però il mondo non è perfetto. Ma che vuol dire? E non dare consigli come se fossi un vecchio nonno, perché questa non è. Ma non... guarda che è veramente da rincoglioniti quello che dici. No, cioè, come dire, le disgrazie accadono, ma certo che Dio che accadano, niente, è evidente. Non c'è niente da fare. Ma se attraversi la strada e hai le cuffie addosso, mi pare abbastanza scontato quello che si allora, sta dicendo. Giustamente mi segnalano che sono più pericolose delle cuffie le macchine elettriche ibrid che non si sentono arrivare con o senza cuffiette. Cioè, tutto è pericoloso, tutto è potenzialmente pericoloso. Vero, questo non è stupidaggine, non è vero. Tutto è pericoloso. Le stagioni non sono più quelle di una volta, si stava meglio quando si stava veramente peggio. Questo è quello che dici tu. Ma Cristina che vuol dire da Bologna, che tutto dai. È pericoloso. Cristina da Ci Bologna. Ci sono delle cose più pericolose. Se attraversi la strada con gli occhi schiusi, ma no, è pericoloso. Se attraversi una strada con delle senza sentire, minchia, con ragazzi, delle cuffiette. Che cosa nuova, che cosa originale. Che cosa, ho detto, cioè, che tutte te la le prendi con chi dice no, che con chi si preoccupa le cuffie, con allora, chi si preoccupa? Allora di cosa si sta discutendo? Di niente, non bisognerebbe discutere di nulla. Infatti non bisognerebbe discutere di nulla. Beh, sei curioso. Non bisognerebbe un amore sotto un treno, pubblica di che cosa si discute. Un amore sotto un treno perché non sente bene, perché alla mattina alle 7:45 travolta da un treno ad alta velocità e si discute del niente, del nulla. È un caso che non si ripeterà mai. Alta velocità, cuffiette, 7:48 di mattina, passi un treno ad alta velocità, ti va addosso, amico mio, dai, forza. Cristina, Bologna, vai. Oi, ciao, sono io. Sì, sì, fino a prova contraria. Sì. Niente, io volevo intervenire su quella questione di Morelli, tutta quella che ha fatto sulla... Morelli. L'avete già fatto, sì. Sì, ieri sera da noi, sì. Dimmi, che è successo? Posso comunque dire la mia, ma sì. Ma tu devi dire quello che vuoi, hai chiamato tu, chiami, non parli, vai. No, volevo dire questo, il fatto che lui abbia detto che il tradimento sarebbe un forte dimagrante, ha detto una cosa del genere. Sì, ha detto che il tradimento può favorire, diciamo, il dimagrimento. Sì, tradire perché l'adrenalina, una serie di motivi. Allora? Il tradimento. Il tradimento, sì. Però quello che non ho capito io, da parte di chi? Cioè dell'uomo, della uguale, donna? È uguale, naturalmente. No, su questo vabbè, non ero io, non ho capito una cosa. Cristina, perché cosa hai chiamato a fare? Cioè, qual è il metodo? No, alla radio si parla, non si sta zitti poi, perché altrimenti c'è il vuoto, capito? C'è il vuoto. Niente, non c'è che parlare. Nicola da Pescara, vai, andiamo avanti, ragazzi. Uno non parla, andiamo avanti. Nicola, vai. Eccomi qua. Dimmi. Giuseppe. Giuseppe, una curiosità me la devi togliere, un po' che non chiamo, ma sì. Sento dire da parente, spero non sia vero perché sono in cazzo veramente, sì, che sì, pare senti. Che tu abbia il malvezzo di andare a cena, sì, anche in compagnia di donzelle, di donne, signorine, e non metti mai le mani in tasca. A parte che questo, a parte che questi sarebbero cazzi miei. Chi paga cena con me sono affari suoi, sono affari miei. Non è vero, ma anche fosse così sono affari miei. Chi paga cena con me? Se mi voglio far pagare le cene, me le faccio pagare. Un attimo, voglio chiedere a lui. Posso? Me lo consente? Sì, sono qui. Ma tanto Parenzo ti risponderà. Testimonio che molto 90.9% è successo. Certo che non mette che ha il braccettino piuttosto corto. Sì, questo è risaputo in tutto il mondo, diciamo. Ma non è una colpa, diciamo. Bene, bravo, ti sei sfogato. Ma non è possibile, tu consenti a una donna di mettere la mano. Ti sei sfogato? Ma non è una colpa. Ti sei sfogato con questa puttanata mio, o no? Ti sei secca di Coletti, il tuo collega, che ha fatto una puntata su questo malvezzo dell'uomo italiano, taccagno e pidocchioso, che nel ristorante fa finta di prendere il portamonete, aspetta che la signorina cacci la carta di credito. Se fai parte di questo gruppo di figuri, quando torni a Pescara, ti giuro, invece di salutarti, che fai? Mando a fare il culo. Oh, live. Ma sai che paura? Dal vivo! Sai che paura? Guarda, prima me la sto facendo sotto per quello che dici. Puttane, ma guarda, me la sto facendo per quello che dici, guarda, sono preoccupatissimo. Agghiacciante, se tu fai pagare le donne a cena, sei un barbaro, ma lo capisci? Sono un barbaro. Sei un barbaro, un primate, sì. E anche Parenzo che c'ha mille di a parte fosse così, sarebbe anche un tocco geniale, no? Tu non ma va a cena, vai a cagare, sei un taccaglio, ma quale tocco geniale? Una donna a cena le fai cacciare i soldi, vai. Fosse così, ho detto, pure. Fosse così è così, touché, sì. Lo fai, touché. Mazza, ti senti figo stasera? Non mi sento figo. Ti senti figo? La verità. Ti senti figo? Sincero. Guarda, non ho mai, credo che in tutte le volte in cui sono stato a cena con una donna abbia pagato il 2% delle volte che sono andato a cena. Il 2%. Io credo che Parenzo smentirà. Parenzo dice un'altra cosa, siccome non viene a me, non viene a cena quando io vado con le donne. Le cene con le donne. Il 2%, il 2% altre cene. Ti ripeto il 2%, però siccome tu sei convinto siccome tu sei convinto di questo, a prescindere da quello che dico io, sfogati. Appunto per questo ne guadagno tanti, perché non non pago bomba, le cene. Perché non pago le cene. Almeno a cena, no? Sfogati. Bravo. Ti sei sfogato, sei contento. Sono intervenuto alla Zanzara e ho detto a Cruciani che non paga le cene alle donne. Mamma mia, quanto sono figo! Quanto sono figo! Mi ascolti? Dimmi, fai divertire, dimmi. Oh, guarda, sono incazzatissimo. Il tuo amico padrone, De Benedetti, oggi l'ho sentito a telegiornale. Non è mio padrone, De Benedetti. È una notizia vecchia. Sei arrivato in ritardo, è di due giorni fa. È di due giorni fa. Non è l'editore. Tutte le volte che io ti ho chiamato, due giorni fa. Aggiornati. Due giorni fa. Notizia vecchia. I nostri. mi auguro che almeno lui offra le cene alle signore o signorine, allora, che sono così. Innanzitutto, tu puoi dire quello che vuoi su De Benedetti, non è un problema, non è il nostro editore. Informati, non è l'editore di questa radio. Informati, buffone. Informati, ignorante, buffone. Hai fatto la vergine violata, ma online. Ma non su hai cosa? Ma di che stai parlando? Fumo, ma stai parlando? Ma mi sembri cosa? Solo fumo. Ma di che sì che parli, Sorgenia? Hai promesso di mettere online il contratto di Sorgenia. Che cosa ho promesso io? Che cosa ho promesso di mettere il contratto di che? Mi hai promesso davanti a milioni di ascoltatori. Di che cosa? Di mettere online il contratto di Sorgenia. Il contratto di che? Di quale? La pubblicità di Sorgenia con voi. Ma non lo so, ci sarà, ma chi se ne frega, ma non è l'editore, confondi un inserzionista pubblicitario con l'editore, imbecille, cretino, bestia, a casa, vai a casa, Nicola, ti sei sfogato, bene, bravo, sfogati, bene, vai a casa adesso, vai, bravo, sfogati. Adesso la borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. Scopri il nuovo modo di guidare su drivedifferent.it. La Zanzara. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Cruciani non offende mai nessuno. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La notizia incredibile, caro Parenzo, è questa: che il professore che avete appena sentito, che ovviamente è il professore Severino Antinori. Certo, Severino certo. Antinori, grande ginecologo, possiamo definirlo solo ginecologo, no? Scienziato, no, diciamo. Beh, scienziato. Colui che fa partorire le over 50, diciamo, anzi, le over 60. Anche. Fino a 63 anni. Fino a 63 anni. E il professor Severino Antinori non può andare a Roma. È stato emesso un decreto dal Tribunale di Roma che gli impedisce di andare a Roma perché è stato accusato di stalking nei confronti della moglie, di avere picchiato la figlia, così leggo, di avere anche perseguitato la moglie stessa. Ci sono dissidi sulla gestione dell'enorme patrimonio. No, non so Antinori. Se è enorme, insomma, sì, ingente. Così leggo. Il passaggio più bello è questo: Antinori a Milano, di solito giovedì va a Roma e lì si scatenava l'inferno. Grida, siete delle ladre, faccia a faccia minacciosi, porte sbattute, indici puntati sul viso, pianti disperati delle tre donne e telefonate allarmate alle forze dell'ordine. Come tre donne? Perché sono la moglie, forse due figlie, dunque tre. In una di queste scenate Antinori avrebbe alzato le mani sulla figlia, gesto che ha messo la moglie in guardia, la spinta ad arruolare un gorilla 24 ore su 24. Il tribunale dispone per Antinori il divieto tassativo di mettere i piedi a Roma e provincia. Qualche giorno fa, lo abbiamo pizzicato per telefono e ci ha raccontato, sempre se si capisce la cosa, Parenzo, un episodio della sua vita. Tu sei stato dai preti da giovane? Non ti posso fare questa cosa, molto spinoso. Perché? No. Che hai fatto? Dove eri? In collegio dei preti? Stavo dei teatini a Morlupo. A Morlupo, che è successo? Avevo manco 11 anni. C'era un giorno quando mi si uomini pigli. Gli uomini pigli. Mi toccò il culo. Ti ha toccato il culo? Un prete. Io ho chiesto molto niente, cosa faccio? Ma scusa, ma come te l'ha toccato sto culo? Tanto io facevo le lezioni. Sì. Lì mi doveva spiegare il latino. Sì. Mi si è ambasciata dietro e poi mi ha toccato il culo. Però non so, poi dopo penso di sì. Io ho avuto una chiara avanza di errori, allora reagire, che ero già reattivo quei tempi. Se no te lo mettevano. Vabbè. Ah, se no, se non eri reattivo te lo mettevano in quel posto. Dice. Ho reagito, ma no, parliamoci chiaro. Io sono a me, lì in quel collegio sei quanti. Cioè, se li inchiappettavano, dici? Per me si inchiappettavano. A me mi cacci- poi mandano a picchiare, Ma scusa, hai capito che c'erano episodi di pedofilia in quel collegio? Sì, a voglia. Ma secondo me a Morlupo, in quel collegio dei teatini, erano stati moltissimi. Quei tempi era tutto coperto. Era tutto coperto. Antinori molestato dai preti, non si capiva niente naturalmente. Nulla, uomini nulla, pi, nulla, uomini pi, uomini pi, uomini pi, mettevo la mano nel culo. Tutto così. Senza controllo sanitario. Ragazzi, prima di tornare con le vostre telefonate, io direi di chiamare, caro Parenzo, il padre del ragazzo che è stato ucciso durante un posto di blocco dei carabinieri. Lui si chiama Gianni Bifolco, il ragazzo 17enne, 16 anni, 17, si chiamava credo Davide. Il carabiniere è stato condannato a 4 anni e qualche mese, secondo alcuni giornali di destra, per esempio Libero, per avere fatto il suo dovere. Chiamiamo il padre, dai. Pronto? Sì, signor Bifolco? Sì, chi è? Sì, buonasera, chiamo da Radio 24, da Milano, buonasera. Come sta? Buonasera. Senta, volevo... Bene. Come sta, innanzitutto? Insomma, ci va avanti. Senta, volevo che lei mi dicesse cosa prova dopo questa sentenza, questa condanna del carabiniere. Niente, guarda, come condanna, che dite? Mio figlio ha avuto 4 anni e 8 mesi per un furto, l'altro figlio mio. Sì. Ha commesso un reato di furto. Sì. Un carabiniere che ammazza un bambino di 16 anni gli danno 4 anni e 4, meno di un furto. Sì. Cosa pensa lei? Io mi vergogno di essere proprio italiano. Addirittura? Sì. Se questa è la giustizia italiana, io mi vergogno di italiano. Quanto devono dare, secondo lei? Se lo facciamo io e lei un reato del genere, ammazziamo un cristiano, sì. Prendiamo l'ergastolo, no? Cioè, perché la legge è uguale per tutti. Secondo lei era omicidio volontario? Sì. E dunque... Ci sono tutti gli elementi. Sì. Non lo dico io. No, ma io ho letto le cose. Quello che voglio sapere, secondo lei è stato, tra virgolette, salvato in quanto carabiniere, allora? Infatti, hanno depistato le prove. Cioè, dall'inizio, depistando le prove, fanno alzare un morto da terra. Che non vengono a fare le indagini. Il PM non ha preso in considerazione questa cosa, perché evidentemente non era suo figlio. Cioè, secondo lei non è vero che non si è fermato a un posto di blocco? Mio figlio, il posto di blocco non c'è mai stato. Il posto di blocco? Ah, il posto di blocco non c'è mai stato? No, è stato un inseguimento. Il posto di blocco lo dicono da loro che non era un posto di blocco, che era praticamente, se stiamo sempre a ribadire, il posto di blocco. Quale posto di blocco era? Vabbè, ho capito, però. Ho capito, però, suo figlio era senza casco, era in tre sul motorino. Quindi si ammazza una persona. Per me, una persona che viene ammazzata perché va senza casco e sta senza, viene multato, non ammazzato. Sì, d'accordo, però. Il problema è evidentemente la ferma dell'alt. Il fatto che evidentemente c'erano dei sospetti. Cioè, secondo lei, perché avrebbero ammazzato questo, cioè, suo figlio? Cioè, per qualche motivo? Perché questo è uscito fuori perché di te? È stato scambiato per un latitante. Eppure se fosse il latitante, stava su. Cioè, pure se fosse il latitante, mio figlio era latitante. Si ammazza una persona? Questo è un processo politico, è iniziato politico e finito politico, quindi addirittura è falsato, un processo falso dal primo momento, perché noi abbiamo tutti, come si chiama questo qua che hanno ammazzato all'estero, no? Sì. Reggeni. Tanto di rispetto per il morto, no? Perché nessuno dovrebbe essere ammazzato. Assolutamente, no? Però. Allora, stanno facendo di tutto e di più per farci dei fuori, quando poi in Italia gli ammazzano un bambino di 16 anni e non fanno un cazzo. Ma la smettiamo? Però scusi, io capisco il suo dolore di padre, però sì, quello, così, guardi. Quello andava in motorino in tre senza casco, suo figlio, sempre per carità, non è che merita di. E ti ripeto, mio figlio andava a tre. E veniva multato. Non c'è giustificazione né per mio figlio che camminava senza casco e andava a tre, e non c'è giustificazione di un morto che viene fatto perché invece di essere multato viene ammazzato. Senta, se lei avesse di fronte il carabiniere, che cosa farebbe? Sua moglie ha detto ti mangio il cuore. Lei che cosa farebbe al carabiniere? Ma io lo guarderei solo negli occhi e direi dormi la notte per quello che ha fatto. Basta, non solo lo farei nulla. Solo questo. Sì, non lo farei nulla. Sua moglie ha detto ti mangio il cuore. Ma è normale, una mamma che viene. Mia mamma, mia moglie, a parte mia moglie non è più mia moglie perché sta sotto psicofarmaci e tutto il resto, lasciamo perdere. Quindi nella rabbia di una mamma può dire tante cose, qua dicono tante cose con le bocche, però loro fanno con i fatti. Allora, mo ti dico una cosa, a me io devo fare otto mi hanno dato 8 minacce e lesioni, sì, solo per uno sfogo, per parlare con i carabinieri, mi hanno chiamato in caserma e mi fanno le denunce e mi rinviano a giudizio per minaccia e lesioni. Ho capito, lei avrà reagito male, lei, però, scusi. No, io ho reagito male. Sennò altrimenti... Io ti sto dicendo, io sfogavo con loro. Ho capito, ma non è che uno si prende le denunce uno così. È normale. Sì, fanno abuso, lei, di potere. Lei ha dei precedenti? Lei ha dei precedenti? E quindi? No, un punto interrogativo, glielo chiedo. Mi sembra che lei mi sta facendo l'intervista no, da parte. No, che di parte? Scusa, le sto chiedendo, ha dei precedenti? No, ti vedo di parte proprio. Ma che di parte? Sto facendo delle domande. Ma che? Sto facendo delle domande. Lei ha dei precedenti? Io ce l'ho i precedenti, per furto. Per furti. No, è per carità, io ma è giusto per sapere. Ma per scelta faccio i furti. In che senso per scelta? Per scelta, perché lo Stato, io non sono io sono una vittima di uno Stato malato. Cioè perché non dai lavoro? No, ho capito, però. Non mi dà possibilità di lavoro, perché per 53 anni non mi hanno mai cacato, hai capito? Non sono, qua gli immigrati, tanto di rispetto agli immigrati, gli danno i soldi, hai capito? Ho capito. E perciò sei di parte, vedi come. Ma no, di parte, sto allora chiaro. Ti dico, ti dico, amico mio, non vai a rubare, ma secondo te, fammi capire una cosa, ma tu dove vivi? A Milano? A Milano, sì. E vieni a Napoli. Ho capito, ma che vuol dire? Perché... Hai capito? È una lotta per la sopravvivenza. Ho capito, qua. Ma no, se uno deve ragionare, non c'ho il posto di lavoro, vado a rubare, è finita. Vabbè. È finita, e lo so, ma perché lo Stato non si muove a dare il lavoro? Ma che non è lo Stato che deve dare il lavoro, basta con questa storia. E chi lo deve dare, scusa? Ve lo dovete procurare da soli però, il lavoro. Scusi, se lei dice che... da solo, perché tu non te lo sei procurato da solo. Ecco, e no, chi mi ha dato la mano qualcuno? E come hai fatto, scusa? Ma come sono fatto un culo così? Ho studiato, Hai studiato, hai avuto la possibilità di andare a studiare, ho capito, ma qui non c'è piatta a tavola per mangiare. Va bene, ho capito, allora bisogna rubare. Allora bisogna rubare. Stai parlando e mi stai facendo il testo a me. Ma le domande, ti sto facendo delle domande. Non sono domande, perché tu fai affermazione. Va bene. Perché se ti dico che non c'è lavoro, dammi il lavoro e io non vado a rubare. Bene, ho capito, ciao, grazie, grazie, ciao. Dammi il lavoro e non vado a rubare. Di una Tania meno Parenzo. Di una Tania meno Parenzo. La zanzara. Francesco da Napoli, vai Francesco. Comunque la testimonianza del padre è incredibile, per carità. Poi le battaglie processuali vanno bene, loro sostengono, ognuno può fare quello che vuole. Loro hanno vinto la battaglia processuale da un punto di vista. Beh, no, solo che volevano l'omicidio volontario, dunque non hanno vinto un cazzo. Non si ritengono totalmente risarciti. Non hanno vinto nulla, perché volevano un'altra cosa, cioè volevano l'omicidio volontario. Ma al di là di questo, io posso capire tutto, che uno sostiene. Beh, poteva che... anche non essere condannato il poliziotto, perché nell'esercizio a mio parere, a mio parere, se c'è un posto di blocco con tre persone. Comunque, se ci sono tre persone su un all'inizio sembrava addirittura ci fosse un latitante sopra, e uno spara, a meno che non fa l'inseguimento e spara appositamente per ammazzare, e spara perché questi qua non si fermano. Amico mio, se un poliziotto non può sparare semplicemente perché le persone non si fermano al posto di blocco, può, è finita. Ovviamente, dai. Però nel nostro paese, come in America, da Napoli, ci sono dei processi che accennano, che uno muore e chi se ne frega, dice no. Morto, vabbè, il poliziotto può fare qualunque cosa, no? Non è così. Francesco da Napoli, sì, vai. Salve, sono Francesco, sono un appartenente alle forze di polizia del lavoro, sì, a Napoli. No, ma la cosa incredibile la roba sul lavoro, ragazzi, cioè, è quello che ha detto il padre di questo ragazzo, cioè ha detto quello ti fa capire rubo perché non c'è lavoro e lo Stato non ci dà il lavoro, cioè non è colpa mia se rubo, capito? Francesco, vai. Allora, io sono un appartenente alle forze dell'ordine. Abbiamo capito. A Napoli, sì. Ho collaborato anche con Parenzo a quel servizio che facemmo 2 anni fa quando ci fu l'episodio del Rione Traiano, non so se lui si ricorda. Ah, come no, sì, adesso ho capito, abbiamo fatto. Beh, sì, ah, grazie. Sì, vai Francesco, allora, dai. Allora, oggi è una sconfitta, dite così a quel signore, perché quel signore non solo va in giro e delinque, il figlio in galera perché delinque, certo. Però noi, per fare il nostro lavoro e rischiare 4 anni di carcere, preferiamo non fermarli più a questi signori. Questa gente ha avuto il coraggio l'altro ieri di venire a sventagliare con un mitra una caserma dei carabinieri. Il clima è questo, ma il clima è questo. Poi un poliziotto non può sparare a tre persone perché ci sono tre persone su un motorino. Però per carità, va bene. Sono venuti a sparare. Poliziotto non può sparare, quello no. Dovrebbe sparare alle ruote. Sono venuti a spararci in caserma. Ma chi è venuto? Questo è un altro episodio. È successo l'altro ieri a Napoli, in periferia a Napoli, vicino a. È vicino al Rione Traiano. Vicino al Rione Traiano. C'è stata una sparatoria davanti alla caserma. No, sparatoria no. Sono venuti in macchina, hanno tirato fuori. Vabbè, ma questo che c'entra adesso, Francesco? Vuoi dirci che il clima... Non il clima, questa gente è fatta così, anche se gli date un lavoro. Ma sapessi quanti ne abbiamo arrestati, che lavorano regolarmente e la notte vanno a rubare. Ma certo, ma è così, non c'entra niente. Sono stronzate, a me dispiace che quel signore ha perso un figlio, dispiace moltissimo, però un'altra vita si è bruciata. Perché quel carabiniere, a quell'ora, stava lì per fare il suo dovere. Suo figlio a quell'ora poteva starsene a casa sua. Vabbè, ho capito, però. Vabbè, questa è così, non è una motivazione. È così, diciamo. Però. Cioè, non è una motivazione. Davide, è così. Ma non esiste. È così. Non esiste che uno possa morire perché non aveva il casco e non si è fermato quello, a uno stop. Su, questo sicuramente. Quello. Dopodiché è stato condannato il carabiniere. Io non è che dico che è troppo poco, troppo. Non ho, mi sembra che sia una sentenza giusta. Però dire che è normale che uno muoia a un posto di blocco, questo non è normale, sicuramente. È normale, e infatti i giudici hanno ritenuto che non sia normale. Perché ma non sennò, è normale. Sì, ma non è che si può dire doveva stare a casa a mangiare a vedere la partita, perché non è così. Davide, io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo se quella sera, quella maledetta sera, il carabiniere faceva il suo dovere tranquillamente e altrettanto dall'altro lato non transitavano in maniera come i fuorilegge camminano, perché non vieni con noi la sera? È così, è così. Ma adesso andare in tre in motorino, per quanto sia brutto, però. Sì, ma non diciamo, è che non in tre in motorino senza casco per caso, dai, su. Ma però erano tutti e tre incensurati quei tre ragazzi lì. Non mi risulta. Francesco. No, non erano incensurati. I tre, il fratello di quel che è morto è in galera, ma i tre ragazzi mi sembra che siano, di cui anche quello morto, poverino, Anzi, ti dico di più, uno dei tre sta attualmente in galera. Dai ragazzi, su di che parliamo? Ciao Francesco, ciao. Paolo Arezzo, vai. Paolo Arezzo, dimmi. Seppe. Sì, dimmi Paolo. Senti, volevo dirti una cosa contro i vegani. Però sì. Non quelli normali che non rompono i coglioni, insomma, quelli più intransigenti. Ho letto un articolo del Sole 24 Ore di Paolo Maggiocco, no? Dice che i bovini provocano più inquinamento delle automobili. Praticamente le flatulenze di questi animali provocano un gas metano che fa effetto serra più forte. Non lo so se è così, ma io, guarda, siccome si possono citare mille cose da una parte e dall'altra, ho deciso di non soffermarmi più su questi argomenti. Che sta succedendo lì? Che stai facendo, Paolo? Stai scorreggiando? Sei una flatulenza, sembra. No, è successo di macchina. Ah, sei sceso dalla macchina. Non mi interessa di citare i dati delle ricerche. Cioè, tanto ne escono alcuni, addirittura recentemente ne è uscito qualcuno per cui il veganesimo procurerebbe un sacco di danni alla salute e addirittura ci sono rischi di cancro, per cui no. Ma che succede lì, Paolo? Che succede? Passano le macchine, Giuseppe. Ah, le macchine che passano. Vabbè, Paolo, ti abbraccio, ciao. Dimmi. Che c'è? No, dimmi. La cosa che mi faceva sorridere è che praticamente se fossimo in un mondo completamente vegano, cioè se a rischio pure accendere una sigaretta salti per aria. con tutte sicurezza, a me mi fa, cioè, mi fa ridere. No, ma spiegami la cosa, scusa. Allora, un mondo vegano, siccome si mangiano le verdure, allora no, si scorreggia di più. Se nessuno più uccide gli animali, ci sarebbero animali dappertutto, no? Dunque, aumenterebbe a dismisura questo problema dell'effetto serra del gas. Del gas prodotto, diciamo, autonomamente, naturalmente. È una cosa paradossale, ovviamente. Cioè, uno accende la sigaretta e poi esplodiamo tutti. Certo, si satura l'aria di gas metano, vedete? E per dista stronzata sei sceso dalla macchina. Pure. No, sono sceso perché devo uscire. Ciao. Ragazzi, ci sentiamo tra un attimo, vai, fermi lì. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Cruciani non offende mai nessuno. La zanzara. Giuseppe, hai provato il mio menù ieri sera? Io te lo consiglio, vai come un treno, proteine, pochi carboidrati e vai come un treno. Cruciani, mio ragazzo dice che sono ossessionata da te e ha ragione. Come mi stanno sul cazzo quelli che chiamano e dicono: Giuseppe, ti ricordi? Ho chiamato 6 mesi fa e ti ho detto una roba. Ma che cazzo ti devi ricordare? Ma minchia, ma ricevono 600 telefonate al giorno e cagano te. Ma vaffa. Cruciani, è 1 del pomeriggio. Ho fatto una scoreggia umida. Me la porto dietro tutto il giorno. Sono a Rodi, gestisco un'agenzia di animazione. Mi è arrivato oggi un animatore vegano. Che cazzo ci faccio io con l'animazione, con un animatore vegano? Che cazzo ci faccio? Mi muore in spiaggia. Siamo al top, traffico. Comunque lo fai apposta per farci arrapare, eh? Ma pure il turpiloquio a letto. Mamma mia, Cruciani. Pippe, pippe, pippe. Pippe, molte pippe. A un certo punto, prima della trasmissione, David mi ha chiamato uno, anzi no, mi ha scritto uno e mi ha detto: sta per iniziare, ce l'abbiamo questo WhatsApp? Sta per iniziare? Sta per iniziare la trasmissione, mi metto lì, mi faccio un cannone. Mi ha mandato la foto, ti giuro, la foto con una canna enorme accesa. Io gli ho risposto, anzi volevo rispondere, amico mio, però già siamo nei guai fino al collo per mille cose. Non è che adesso possiamo anche essere magari accusati da qualcuno, sì, denunciati per da qualcuno, carità, per spaccio di droga, istigazione o per apologia drogare, della marijuana, sì. Che ne so, si alza Giovanardi e ci dice: state facendo l'apologia della marijuana. Chi è questo? Ma non lo so, un tizio, un ascoltatore. No, ma il nome che hai detto prima, si alza? Signor Giovanardi. Pronto? Ma guarda, non c'è il ritorno audio qua, su certe parole le... Chi è? Pronto? Giovanardi. No, ma non si sente qua, alcune parole non si sentono. Agostino da Milano. Ciao Giuseppe. Dai. Ciao, allora volevo ricollegarmi al discorso del carabiniere che ha sparato il ragazzo che sta scappando. Però io vi volevo ricordare che in Italia la fuga è ammessa. Sì, ho capito, è ammesso anche che i poliziotti reagiscano alla fuga, però, eh? Secondo le regole, naturalmente, che per carità, la legge. Il ragazzo che scappa in un posto di blocco non gli puoi sparare, perché se il magistrato va a vedere che il colpo è entrato dalla schiena e uscito dal petto, infatti l'hanno condannato. Questo era assolutamente in fuga. È la stessa cosa di quando ti vengono a rubare in casa. Cioè, se io sparo a una persona che mi entra in casa dal davanti o in gioielleria... Ragazzi, non siamo dei tecnici, non conosciamo quello che è successo. No, è questo... Dico una cosa molto semplice. Napoli è Napoli. Il quartiere dove è avvenuta quella roba lì qualche anno fa è un quartiere molto, molto pericoloso. C'erano 3 persone su un motorino, senza casco. Probabilmente tra queste 3 persone c'erano anche dei poco di buoni, diciamo, dei pregiudicati o delle persone che erano precedenti, eccetera, eccetera. E la famiglia nega che ci sia stato addirittura un posto di blocco. Dice che c'è stato un inseguimento. Un poliziotto spara, forse in maniera improvvida. Ma non lo so, è stato condannato. Ma ragazzi, ma non è che dice gli fai una multa. Il padre ha detto gli fai una multa. Ma le multe, ma di che parliamo? Le multe a Napoli, dai, su. Le multe. Beh, però non è che stiano sparando. E infatti l'hanno condannato a 4 anni. L'hanno condannato a 4 anni. Infatti non si usano neanche più le bande chiodate che una volta si usavano, perché è anticostituzionale. Cioè, uno che delinque può scappare. Vabbè, ma questo lo sappiamo. Attilio da Milano, vai. Ciao. Attilio, come qua? Dimmi Attilio. Ciao, no, io intervenivo per un altro argomento, che era quello dei bandi, del cesso e del problema della chiusura della tavoletta, diciamo. Sì, no? sì, Attilio, dimmi, dunque, dai. Dunque, io viaggio parecchio e in Giappone Stai parlando col viva voce o in un modo? No. O l'auricolare, no, che ne so, auricolare. No, che ne so. No, non ho nulla. Vabbè, dai, forza. E quindi in sostanza c'è un sistema, loro hanno un sistema molto avanzato che riscalda l'acqua e nel momento in cui viene chiusa la tavoletta, si lancia lo sciacquone, automaticamente si ripulisce il tutto. Quindi, vabbè, anche in Italia si ripulisce, anche da noi si ripulisce il in tutto. In genere sì, nei posti civili funziona. Che okay, cosa così. C'è no, di più lì? Riscalda l'acqua, addirittura riscalda l'acqua questo. E allora? Per cui il problema è risolto, il problema scoppiettore è risolto. Perché è risolto? Riesce a pulire rapidamente tutto? Non ho capito. Assolutamente, sì, perché l'acqua che viene riscaldata all'interno della vaschetta viene, cioè l'acqua che va all'interno della vaschetta viene riscaldata chiaramente, e automaticamente quando si chiude la tavoletta tutto va giù. Tutto va giù. Vabbè. Ah, perché dice grazie al calore si scioglie, esatto, tutto. Ho capito, grazie al calore si scioglie, chiaro, si scioglie tutto. Ciao Attilio, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Attenzione, attenzione, tra circa un quarto d'ora, 20 minuti, arriveranno qui gruppi di fruttariani, gruppi di fruttariani. Fruttariani. Gruppi di fruttariani, fruttariani. Sì, perché il signore che verrà fra un quarto d'ora, che è un fruttariano, cioè, solo frutta, non è un nazi vegano, lui si può anche definire nazi vegano, però mi deve portare una pasticchetta, poi sveleremo tutto. Ma è con noi Efe Balla. Cara Efe, come stai? Grazie per questo invito. Grazie. Allora, la signora Efe Balla, come sapete, nota transessuale italo-turca. La notizia è questa, caro Parenzo, perché il la chiamiamo... volto umano di Erdogan, sostanzialmente. Il volto umano di Erdogan, adesso, dai, su, non esagerare. Io adoro Erdogan. Tu adori Erdogan? Ma come? C'è bisogno di un dittatore del genere a un paese come la Turchia? Guarda, ma che quello ti vorrebbe morta se fossi là. Com'è? Se fossi in Turchia, non è che potresti proclamare, guarda, apertamente. Io vado in Turchia senza nessun problema, assolutamente. Vado lì, non è che mi cambio, metto il velo, chissà che cosa, e esco dall'aereo come qui. Come non giro, mi sembra un moderato, comunque. No, guarda. Abbiamo le piace pure che va bene, comunque va bene che non va è bene molto, ma adesso non parliamo di Erdogan, chi se ne frega. Allora, Efe Balla, Efe Balla, io farò il tifo per la signora Efe Balla, grazie, che come sapete è una grande sostenitrice della legalizzazione delle prostitute, sarà candidata a Milano, caro Parenzo, nelle file del Partito Liberale, italiano, che sì, non sapeva, cioè, di cui l'ha fatta farsi infilare da qualche parte. Beh, adesso questa cosa qua. Loro e sono stati sinceramente geniali. Ma chi io ti ha chiamato? Chi ti ha chiamato innanzitutto? Cavaliere Auriemma, chi ti ha chiamato? Mi hanno chiamato proprio dalla loro direzione, Raffaele, un signor Raffaele si chiama. Ma che ne so, Raffaele, manco sai i nomi, manco. Vabbè, ma allora? Poi il segretario nazionale, poi il segretario di provincia di Milano, Tiberio Bonagolo. Sì, poi? Signori, mi hanno chiamato due settimane fa, mi hanno chiamato e mi hanno invitato a loro sede a parlare e sono stati unici geni, se posso permettermi, a pensare che tra i tantissimi problemi che c'è a Milano, che questi nuovi sindaci vogliono risolvere, anche la prostituzione sulla strada. Allora tu innanzitutto chiariamo una cosa: Efe Balla si candida a Milano nel Partito Liberale, che è alleato del centrodestra, giusto? Ovvio, sì, noi sosteniamo il signor Parisi. Ovvio, non sosteniamo c'è Parisi. Dunque, Efe Balla, la notizia è questa: Efe Balla sostengo Parisi, cioè nelle liste che appoggiano il candidato di centrodestra Parisi, c'è la nota transessuale turca. Se Efe il povero Balla. Parisi aveva qualche chance in più, anche adesso. Teatro del Verme, un signore molto gentile, molto alla mano. Ti piace fisicamente? Vabbè, non entriamo nei dettagli. No, entriamo. Come parlavo, come scherzava, è una persona veramente gentilissima. Vabbè, adesso questo chi se ne frega. Ma quando lo guardi, a che cosa pensi? È molto importante, perché non vogliamo avere sicuramente un sindaco al giorno di oggi molto snob, molto così. Vabbè, però adesso parliamo di cose serie, che ci frega. Vabbè, va bene, comunque sia, per la prima volta una prostituta per Milano per risolvere il problema della prostituzione sulla strada. Ma cosa sa Parisi questo? Non lo so. Io ho fatto tantissime cose in primis, però Efe, scusa un attimo, fammi parlare, fammi fare le domande, non cominciare tu come al solito. Bene, allora, la cosa è molto semplice: Efe Balla, nota transessuale, tu italo-turca, si candida a Milano con Parisi. Dunque, Efe Balla per Parisi. Bellissimo, Efe Balla per Parisi. Voglio dire una cosa: ma gli fai un favore a Parisi? Ma non che me ne frega a me. La prima proposta è questa, mi sembra: togliere le prostitute dalle strade. Dunque, sei favorevole a creare delle zone a luci rosse, o sbaglio? Questo dobbiamo ovviamente parlare. Ma dimmi quello che dimmi quello che pensi tu. So cosa ma sembra Demita. Sembra Demita, cioè parla una cosa. Come Demita la signora Balla ormai. Scusa, allora diciamo una cosa: le faresti dobbiamo le zone luci rosse? Dobbiamo valutare all'interno di un quadro politico se per caso. La signora Balla è transessuale, va benissimo, però faresti le zone luci rosse? Non niente di strano. C'era anche Luxuria fino a poco anni fa. No, e poi ma dico la signora Balla non può parlare come un politicante della Prima Repubblica. Le faresti le zone a luci rosse o no? Io probabilmente ci sono già, c'è via Cenisio, c'è via Pirelli qui a Maggiore Gioia. No, ma delle Gioia. zone comunali legalizzate a luci rosse, le fareste o no? Perché no, bisogna comunque risolvere qualche modo questo problema. Prima e di dunque? Tutto, chi non è idonea a fare la prostituta non dovrebbe fare la prostituta. Che vuol dire idonea? Scusa, vuol dire che chi è malato di AIDS, chi è malato di epatite non può andare a lavorare come una prostituta, perché noi e come si fa a capirlo, scusa? Come si fa a capirlo? Ma bisogna fare un controllo sanitario. Bisogna chiedere, lei fa la prostituta? Allora invitiamo un attimino a fare un test anche in ospedale comunale, perché no? Magari a costo zero, a costo pochissimo. Test per tutte le prostitute, test sanitario a tutte le prostitute, schedare le prostitute. Schedare e capire chi lavora e chi non lavora, chi è idonea a lavorare come senti, una prostituta. Un'altra proposta che si può fare, tu distribuiresti un po' di Viagra, un po' di Cialis agli anziani? Ma io sinceramente distribuirei un po' di preservativi alle prostitute, poi parlerei con loro. Preservativi comunali. Tanto anche per capire chi viene sfruttata, chi viene però lascia perdere. Vuoi rispondere alle cose mie, per favore, ti prego. Dimmi, i preservativi preservativi comunali, questo è buono, Parenzo. Preservativi comunali. No, io ho lo slogan per la sua campagna elettorale. Ho la mia foto sopra, ti immagini? Io ho la foto tua e lo slogan deve essere vota Ball oppure fora di Ball. Bellissimo, è venuto così. Quella è la Lega. Sì. È vota Ball oppure fora di Ball. Bellissimo questo slogan, è venuto così. Scusami, potrebbe essere anche ovviamente la distribuzione però anche dei Viagra e Cialis o quello che è agli anziani non è male, agli anziani milanesi, che dici Efe? No, quello secondo me io se facciamo una cosa del genere piglierei tanti di quei voti che non ti dico appunto, dico proponi Viagra e Cialis agli anziani ho scontato scusa, perché non fai una cosa del genere? Ti fai una proposta molto semplice, anche hard, devo dire hard, però una trombata gratis, un voto. Ma credo che dal Partito Liberale non mi daranno mai un permesso del genere. E che te ne frega, ormai sei nelle liste. Ormai sei nelle liste. Di togliere i filmini porno che ce l'ho io nel mio sito. Togliere i film porno nel tuo sito? Ma che cazzo voglio? Una suora, scusa. Ma che liberali sono? Giugno me l'hanno chiesto questi tipi di favori. Scusami, ma tu gli devi dire. Ma tu gli devi dire. Siete liberali? Se siete liberali, che cazzo volete da me? Scusa. Non mi hanno obbligato, mi hanno chiesto gentilmente questo tipo ma di... Ma ti pare che uno chieda a Febal di togliere i filmini porno che c'è nel tuo sito? Ma è una cosa ridicola, dai, che non è che hai candidato David Parenzo. Scusa. È la prima volta una prostituta per un problema che riguarda Milano di prostituzione, quindi questa è la cosa meravigliosa. Io ho fatto tantissime cose in primis. Appunto. Ho preso pagine intere sul Corriere, mettere per anni e anni manifesti aspetta, a Milano. Aspetta. Mi sono buttata la buca di scala per aprire la fissione. Pronto, e adesso la Lega. Invece entro in politica. Sì, vabbè, ho capito. Stai zitta un attimo. Radio Padania questa. Allora, amici di Radio Padania, buonasera. Sono Umberto Bossi. Ma che c'è? Signor Bossi, come sta? Volevo dire, mi piace come molto. Come andatela con la signora, quella alta bella in cui lei ha avuto quel malore un paio di anni fa. Questo bal, questo racconta tante bal, questo bal. Sì, non vabbè. So che cosa dice questo bal, racconta solo bal. Però volevo dire questo perché mi sono collegato adesso con la radio Padania. No, è la radio 24. Stai zitto. Vabbè, che vuoi, i Bossi? Allora, ho detto che questo Partito Liberale mi piace moltissimo. Ci sarebbe un ragazzo molto bravo, con grande esperienza politica, che si chiama Renzo. Andrebbe messo in lista anche lui nel Partito Liberale. Bravissimo Renzo Bossi. Capo, al posto la Ball fuori di Ball. E Renzo dentro il Partito Liberale, sempre stato liberale lui. Vabbè. Da quando era liberale con i rimborsi spese, figurati come è liberale adesso, quando entra nelle liste. Va bene, grazie Bossi, grazie. Io voglio capire una cosa, la facciamo questa proposta più Viagra agli anziani o no? Sì, facciamola, dai. Efe. Viagra agli anziani, ma questo non c'entra niente con la prostituzione. Ma che c'entra? Vabbè, Viagra agli anziani. Sì, per quelle che dico, cioè noi come partito sicuramente non distribuiamo Viagra agli anziani. Non ce la faccio più, non ce la faccio, partito? Ragazzi. Non ce la faccio. Ma è assurdo che dica noi come partito. Tu vuoi farmi fare lo stesso fine che ho fatto all'Isola dei Famosi? No, ma che per carità. Mi agiti per farmi parlare delle cose che non dovrei dire adesso, perché le cose... Preservativi nelle scuole. Preservativi nelle scuole, questo bisogna parlare con Gelmini o chi con fa Gelmini. Adesso. Ma tu ti rendi conto? Ma chi è Demita? Sei Demita? Sei. Vabbè, ciao, mi hai rotto i coglioni. Ciao. Bene, ciao. Allora, No, giustamente mi scrive il professor Viale, grande radicale medico di Torino. Dice: spiegate alla signora Ball che in Italia il test per l'HIV è gratis. È già gratis il test per l'HIV. No, lei dice fare una schedatura delle prostitute. Bravo, Viale, e bravo. Che cazzo c'entra? E portarle a fare sto Silvio testo. Viale ha detto: ma sì, ma che è una puttanata, dai, la sua. Non quella di Viale, quella della Ball. Siete criminali! La Zanzara. A Parenzo al massimo glielo appoggio molto volentieri. Oh, porco maiale, ce l'ho con te oggi! Ce l'ho con te proprio, Diego! Disgraziato, Diego! Tanto ciao! Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta il bevitore di piscio. Allora ragazzi, vogliamo fare una telefonatina a Antinori, Davide, che dici? Sì, ricostruiamo bene tutta la... Sì, però va tradotto mentre parla. Allora, la cosa fondamentale di Antinori è questa, un giudice ha proibito ad Antinori di andare a Roma, cioè esatto. Praticamente una specie di DASPO. Una specie di daspo, sì, per la città, un daspo. Esatto. Non può entrare a Roma e provincia perché ha stalkerizzato la moglie, pare che abbia picchiato la figlia. Avrebbe. Secondo giudice. Lenca Matrix. Sì, buonasera, cercavo la segreteria del professore. Le dica il dottor Cruciani, è molto urgente, grazie. Cruciani? Sì, grazie, me lo passa. Carissimo Cruciani, dimmi. Professor? Come stai? Ma come che stai succede, tu? Che succede? Ma che sono niente? Ma a Roma, non puoi andare a Roma, che è successo? Ah, questo è da raccontare al mondo, senti. Senti questo. E su tutti i giornali, vecchio mio. Lo so, allora, su tutti i giornali. Dove la raccontano? Che è successo? Allora, dimmi, che è successo? Io stavo in studio alle ore 18. Sì. Tra l'altro stavo visitando una donna giudice. Sì. Del Tribunale di Roma. Pure. Sono i Carabinieri. Ma noi che... Di via di Teulada. Quelli in Cile. Ho detto, pensavo che era la storia degli embrioni. Ah, beh, certo. Chiama il magistrato. Sì. Che sta disturbando la visita. Sì. Molto grave, no? Non ho capito. Beh, un carabiniere viene. No, viene il carabiniere senza, certo, di annunciarsi in uno studio. Vabbè, i carabinieri non è che si devono annunciare. Lo denuncio qui oggi. Sì. Lo denuncio e quindi voglio che a me intervento perché tu mi avvisi prima. Ma non è che i carabinieri. Che vieni, no, tu ma non vieni. Non ma i carabinieri non è che devono avvisare. Ma che roba è? Dove abiti tu, David? Ma non lo so, dove... No, adesso scusa, aspetta. Sta raccontando. Un carabiniere senza avvisare. No, hai ragione. Un carabiniere. Però aspetta, calma. Ogni volta tu, Davide, ogni volta. Ma però non capisco perché ci dei carabinieri Sicile, i carabinieri. Sì, no, però era incomprensibile, volevo solo fare chiarezza, riprova a chiamarlo. C'è il traffico. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. Onexpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Nazi vegani in arrivo. Allora, caro Parenzo, tu non ci sei, mi è venuto a trovare qui un signore che abbiamo già intervistato, che si chiama Max Gaetano. Eccolo qua, buonasera Gaetano. Ciao, buonasera. David, sei sveglio? Ciao caro, sì, ma non riconosco la voce però. Signor Max Gaetano, fruttariano, adesso come cazzo fai a girare con una mela sempre in tasca? Spiegami Max, perché? Beh. Vabbè, la mela del giorno ti dà il fruttosio, che è la benzina che serve cioè, alla specie umana. Cioè tu mangi solo frutta? Di giorno solo mele. E poi? Poi la sera la cena sequenziale, che si parte col melone, con la frutta ortaggio, con l'avocado e la famosa pizza fruttariana. A tale proposito, la signora Rossana, piacente qua in via Mosè Bianchi, sono adesso sceso con la mia adesso a mangiare una pubblicità pizza. Pizzeria, no? È una signora molto piacente. Allora? Ti aspetta e se vuoi andiamo e facciamo la pizza fruttariana. Ma non me ne frega niente della pizza fruttariana. Cosa vuol dire la pizza fruttariana? Cioè, fatta c'è la pasta con la farina della pizza? Con la farina di platano. Platano non è l'albero come potrà pensare Parenzo, che è giusto. La farina di platano. Scusa, ma io ho visto che c'hai i denti alimenti molto rovinati, cioè. Perché? Ti spiego, io ero appassionato di limone, mangiavo tanto limone. Ora, nel fruttarismo non bisogna toccare gli agrumi. Gli agrumi sono molto... cioè, da quant'è che non mangi un pezzo di carne, te? Dal 2009, penso. Dal 2009 non mangi 2007, carne? 2007. E il resto? Il 2009 vegetariano, 2011 vegano, e sì. crescendo, e melarizzando il giorno. Cioè, ma ti rendi conto? Melarizzando sì. il giorno. Ma se uno ti invita a cena, che cosa fai? Sei... Ti porti la roba tua, che fai? Ma in realtà la frutta ortaggio ce l'hanno tutti: pomodoro, peperone, zucca. Ma perché zucchino. Non ti candidi pure tu? Ci sono nazi vegani che si candidano ovunque ormai in queste elezioni. Candida ma pure tu. Io mando avanti gli altri: Daniele Massaro, Efebale, il tuo amico che spara stronzate lì. Insomma, ce n'è prima, no? Parapazzi, ragazzi, esistono pure i fruttariani, ti rendi conto o no? C'è chi mangia mele tutto il giorno, chi la sera mangia il melone e cose di questo tipo. Ma come si fa a campare così? Ma io ti vedo male anche fisicamente, Non ti vedo bene. Cioè, facciamo una prova, chiamo Vegan Gigolo, facciamo una prova di corsa, io te e lui, e vediamo chi arriva prima. Cioè, non ho capito, tu sei sicuramente più forte fisicamente, mi stai dicendo? Io non mi alleno, e una volta all'anno vado a correre e cazzo faccio delle performance che da quando io ho fatto le prove per fare l'ufficiale militare. E sessualmente? Gli esami? Normale. Gli esami, cioè, ma sei sangue, più forte della gente normale o no? Sei più forte di quelli che mangiano la carne o no? Io non vedo, cioè, gli duri altri, di più. Però penso di sì. Pensi di sì. Max Gaetano, che mi hai portato? Vedo qua delle cose. Ho portato il libro sulla rivoluzione fruttariana. Il libro sulla rivoluzione fruttariana. Allora, Max Gaetano, fruttariano, regala Cruciani il manuale della rivoluzione fruttariana sostenibile. Teoria, pratica e cartoteno. Che cavolo è? Carpotecnia, dal greco carpo, giustamente David greco, no? Carpos, David lo saprà. I fruttariani, poi che c'è? Ah, bene. Poi le patatine fruttariane dal platano. Ma come fanno? Di platano, dici? Platano fritto salato. Ma è fritta sta roba? Vabbè, sempre meglio della patata fritta, che è una radice, quindi è ancora peggio. Ma ti rendi conto o no? Cioè, poi le patatine fruttariane dolci. Ma questa è roba che fa malissimo. Sconsigliamo il fritto, ma tra la patatina fritta e il platano fritto. Ma tu sei un fruttariano sui generis, così. Poi che c'è? Le pasticchette, poi, che voglio, dammi le pasticchette. E poi aspetta, prima delle pasticchette. Vabbè, questa è la pizza, dammi le pasticchette. La pizza. Dai. Queste sono del Conte Mascetti, che vuole fare la comune a Mursia con l'Ambenedetto. Allora, la questione è molto semplice. Ci sono queste pasticchette, caro Parenzo, che si chiamano Passion. Ah, sì, ne abbiamo parlato. Passion Pleasure, che sono delle pasticchette che è il Viagra naturale. Devo dirti la verità, devo confessare questa cosa. Ho provato queste pasticchette naturali. Ah, l'hai già provate? Ho provato, sì. Quelle del Conte Mascetti. Amico mio, funziona. Cioè, cosa ti funziona? Funziona. Beh, certo, per te rispetto al nulla, già lo 0-1 già no, qualcosa. No, ma funziona, non c'è niente da fare, funziona. Ti assicuro che funziona, è incredibile. Sarà stata suggestione. Effetto placebo, come la marchi, sarà effetto Vanna Marchi. Ragazzi, allora, lì. Passion and pleasure. Funziona. Oh, ragazzi, non so come mai, adesso non scendo nei particolari, però vi assicuro che funziona. Che ti devo dire? Bisognerebbe sentire la controparte, diciamo. Bisognerebbe sentire la controparte che era con te. Beh, la tua è la perizia di parte, no? Io, per carità, accetto la tua perizia di parte. Ti assicuro che funziona. Beh, ripeto, ti crediamo, ma bisognerebbe sentire anche la controparte. Ma capito, i fruttariani possono prendere il Viagra naturale? In questo caso no, perché ci sono delle piante. Però se il Conte Mascetti ne volessi fare uno con pomodori secchi, con qualcosa di frutta dolce essiccata, potremmo farlo anche carpo tecnico. Roba incredibile. Ma devi dire una cosa a Parenzo, tu, se non mi sbaglio. No, io ho un paio di cose di Parenzo. Innanzitutto ti salutano gli animalisti di Bergamo. E sono chi molto sono dispiaciuti. Questi di Bergamo? Sono molto dispiaciuti che tu abbia il DASPO, che non puoi andare a Bergamo. Perché, senti, io non ci credo a sta cosa, ma è vero che tu hai fatto stalking al capo degli Utah dell'Atalanta? Dimmi che non è vero, dai. Sai, pare che il capo degli Utah dell'Atalanta ce l'abbia con te, che tu non puoi entrare a Bergamo. Cioè, ma tu hai presente, hai la minima idea di chi è in boccia? Davide, Il signor Boccia, pare che tu non possa entrare. Non puoi entrare a Bergamo, lo sai. Pare questa che cosa, il Boccia Bergamo è una città meravigliosa. Andrò presto a Bergamo fottendone delle Boccia. Diciamo. Ma no, non me ne il signor Boccia può fare quello che va. Vabbè, poi altra cosa, qual è? David, purtroppo qua dobbiamo dire una cosa gravissima. Cioè, tu hai dato del dittatore a uno che è stato 12 anni in galera. Questo è grave. 12 anni in galera perché lui si è opposto alla dittatura. Mujica, il presidente dell'Uruguay, ha detto che è un dittatore l'altro era giorno. Era un tupamaro. Questo è grave. Era un tupamaro. Lui ha fatto 12 l'hai anni. L'hai chiamato dittatore. L'hai 12 anni. 12 anni. 10 anni. Quella lì. Va bene, mi dispiace cioè moltissimo. Cioè, lui era un guerrigliero contro il dittatore. Hai detto una cazzata. Cioè, ma ti rendi conto? Lui si è fatto 12 anni. Ma può essere, non mi risulta che che sia una delle cosette democrazie avanzate del mondo. Ma non è vero, mondo, ti sbagli però. In quel caso. Ma detto una cazzata. Cioè, avanzata. Questo qua era più avanti di Mandela, 12 anni, vabbè. Di cui 10 in un pozzo in isolamento. Ma ti rendi conto, David? Hai detto una cazzata, dai. Hai detto una cazzata. Pentiti. Quanto costano queste pasticchette? Non mi ricordo più. Allora, quanto... credo che sono, il pacchetto sono 2, 20 euro, 10 euro l'una. 10 euro l'una. Ricordiamo che... Vogliono sapere qui i tecnici lo vogliono sapere. Fermi tutti. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. Scopri il nuovo modo di guidare su drivedifferent.it. La Zanzara. Heißt statt schlafen fellatio. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Mi è arrivato questo messaggio da Donato da Varese. Parenzo si è trasferito intanto sul taxi o in macchina perché sta andando alle celebrazioni della Pasqua ebraica. Taxi. Donato da Varese, senti che messaggio mi è arrivato. Ciao Cruciani, sono Donato da Varese. C'è una bella notizia per Parenzo. Digli che stamattina i carabinieri mi hanno telefonato dicendo che c'è un procedimento penale su di me emesso da Chicco Testa, in base ad un'infamia fatta di mesi fa nel tuo programma. Ecco, questa è una bella notizia, credo che rinverdirà quella grandissima testa di cazzo di Parenzo. Ma io però non sono tranquillo. Io sono tranquillo, dice Donato. Ma vuoi aggiungere alla notifica di Chicco Testa che ha fatto benissimo? Alza la voce. Deve aggiungere anche la mia, che gli arriverà a breve. Quindi sarà perché? Contento. Perché? Non ho capito, perché lo devi querelare? Lo querelo anch'io per le sue diffamazioni che fa costantemente. Quindi, cioè, non ho capito. Saremo i due. Lo querelo anch'io. Ma perché cosa? Perché cosa? Non ho capito. Perché deve finire di usare quella violenza, quella volgarità. Ma smettila di querelare la gente, smettila. E quindi anch'io lo querelerò. Vogliamo ricordare quello che disse Donato a Chicco Testa? Era il 7 di ottobre del 2015, e ricordiamolo. Affiancare la bolletta e non sia giusto mettere il canone. Vabbè, ma quello che c'è, quello è un dibattito politico che c'è da un sacco di tempo, Donato. Ma, non si può, ma è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. A me, guarda, a me se infatti io... intanto non si può fare, scusa, Donato. Intanto no, non si può fare. No, la sporca sinistra dice che si può fare. La sporca, no, sinistra. Quel verme lì, quel Chicco Testa, quello ridò schifo. Ma che cosa c'è? Io spero che lo quarelli. Ma che c'entra Chicco Testa? Chicco Testa gli cavi la pelle, spero. Spero che Chicco, che ascolta la trasmissione, ti cavi la pelle, guarda. Ma dove cazzo li ha messi sti miliardi di euro sta gente? Nel 96 io spero che gli cavi la pelle, guarda. Quanto spero, che Chicco Testa gli cavi la pelle a questo qua. Quanto spero, guarda. Ascolta la trasmissione, Chicco, denuncialo, cavagli la pelle a questo. Ma che mi denunciasse? Cavagli la pelle a questo poveretto, questo miserabile. Aspetta, è stato mettere in tasca, mi sembra 4-5 miliardi nel 1900. Ma che c'entra adesso Chicco Testa? Cosa c'entra? Perché tutto è legato allo Stato canaglia. Adesso pure Chicco Testa e Bruno Vespa. Cioè adesso Chicco Testa è un grandissimo uomo di merda. Vabbè, ma dai, Donato, basta, io, dai, guarda, su. Quanto spero. Ma perché? Quanto spero che Chicco Testa, ascoltando la trasmissione, non ti quereli per sempre. Guarda. Una persona che fosse stata eticamente giusta. No, io questi miliardi non li prendo. Vabbè, ma che c'entra dei miliardi dallo Stato? Sale, dai, su. Un salame che non sai niente, mamma. Vabbè. Allora andiamo a Modena, Mario, vai. Oh, Cruciani, tutto a posto? Dimmi. Niente, io sono in autostrada, sono appena tornato dall'Olanda, sì. Dove sappiamo tutti che la prostituzione è stata legalizzata, pagano le tasse. Sì, tanti anni fa. Però, ahimè, devo dire che purtroppo non è stata una bella esperienza. Perché? Sei andato a puttana ad Amsterdam? Alla grandissima! Cioè, sei andato apposta per quello? No, ero su per lavoro, la sera, dopo cena, ci sta. Sì, beh, come no, beh, certo. Ci sta, insomma. Vabbè, Parenzo lascialo perdere, Parenzo andrebbe... Dopo ce l'ho anche per Parenzo, che predica contro i testendi, e dopo ce l'ho anche per lui, ma il servizio è scadentissimo, meccanico, non si spogliano nemmeno. Vabbè, adesso bisogna vedere dove sei andato, Mario. Cioè, no, ma ne ho provate due o tre città. Quindi che vuol dire non si spogliano nemmeno? Non ho capito. No, loro si mettono alla pecora, tu fai il vabbè, tuo, adesso non si può andiamo. Nulla. Cioè, tu dici non c'è la passione, non c'è la partecipazione. Non dici. C'è niente. Invece, magari, quando vai in un altro paese del mondo dove è tollerata... ci sono più... Allora, il consiglio che dai ai nostri utenti, ai nostri ascoltatori è: se volete usufruire di questo servizio, cioè andare a prostitute, non andate in Olanda praticamente, giusto? Non andate no, in Olanda? Assolutamente. Perché, insomma, è poca roba rispetto, per esempio, alla Svizzera, eccetera, eccetera. Ranieri da Pisa, vai, sì. Ranieri, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto, allora, una poesia per Parenzo. Sì. Sentiamo. Allora, Gianmarco Dognazzi allora. Intanto mi scrive, aspetta un attimo. Non scherziamo, il Conte Mascetti è solo uno. La carne in tutti i sensi a lui è sempre piaciuta parecchio. E hai ragione, amico mio, ma cioè, il Conte Mascetti, come sai, è un nome ormai universale che viene utilizzato per da chi pensa di vivere in un certo modo. Però è evidente che il Conte Mascetti è solo uno. Da questo punto di vista hai ragione, caro Gianmarco, ti devo dare ragione. Però, come solo sai... Solo Tognazzi e il Conte Mascetti. Ma non c'è solo dubbio Tognazzi. Che solo Tognazzi non e Conte Mascetti. Abusare del suo nome, anzi non va pronunciato in vano il nome. Vabbè, adesso il nostro amico, quello del Viagra naturale, si fa chiamare Conte Mascetti perché evidentemente pensa di vivere come il Conte Mascetti. Una copia sbiadita e anche brutta, patetica. Vai Ranieri, vai, dimmi. Allora, una poesia per Parenzo, si chiama La mollezza parenziana. La mollezza parenziana, sì. Ricordo la casa quando ero bambino, tutti a giocare, io seduto al camino. Gli altri bambini correvano per i campi, solo al pensier mi venivano i crampi. Poi ragazzetto, svogliatissimo e moscio, andate voi a camminare, io m'affloscio. Coi primi amori neanche a parlarne, bravo a parole, ma men con la carne. A lavorare non m'ha messo mai testa, per me ogni giorno era giorno di festa. Or mi dirai che non merito niente, che vivo a spese del sudor della gente. Ma io sono artista, caro il mio gufo, e l'arte mia è mangiar pane a UFO. E dunque? Beh, bellissimo. Ma è una poesia contro Parenzo, in pratica. È una poesia contro Parenzo, ma non è contro, in realtà lui valorizza, lui, secondo lui io non so fare niente, dal non saper far niente ho comunque guadagnato. Quindi io la vedo positivamente invece, cioè come un elogio di chi nulla sa fare, ma comunque sa guadagnare. Bravo. Va bene, grazie Ranieri. Antonio da Napoli, vai Antonio. Mi piace. Dimmi Antonio, pronto? Dimmi. Un attimo, avanti. No. Che sta facendo questo alle 20:42? Sì, ci sono qua, sono in linea. Sono Hai felice. Mangiato o no? No, stavo aspettando a voi che mi chiamavate. Dimmi. Allora, in merito alla situazione di Napoli, io sono di Napoli. Sì, questo l'abbiamo detto. Ho sentito da quel signore che aveva parlato prima... Ragazzi, però parliamo, su, è la radio, bisogna parlare, dai. E lui va a rubare, allora sì. Deve avere il coraggio di andarsene da Napoli oppure di trovarsi un lavoro. Sì, Antonio, tu sei in viva voce, perché si sente male oppure con l'auricolare, non lo so, cioè sarei stato. Aspetta un cazzo, però, amico mio. Senti meglio? Sì, vai. No, stavo dicendo che bisogna avere il coraggio di andarsene da Napoli, non so anch'io. Non si sente niente, Luca da Perugia, dai, Luca. Sì, allora. Dimmi. Uno, quando sono tre ragazzi su uno scooter, non si può usare la scusa che stavo in appoggi perché te sei in macchina, tre in uno scooter li chiappi quando vuoi, li fermi, gli sbarri la strada. Sì, dove? A Napoli, dai, su, non diciamo stupidaggio, non è semplice, perché dai. Era un vicolotto, dopo uscito dal vicolotto quando arrivi su una strada grossa, ma comunque il problema non è questo, il problema è io non faccio di tutta una categoria merda come fanno tanti della mia generazione. Il problema è che stanno a cominciare troppi ste morti. Stanno a cominciare troppi, come quel ragazzo a Firenze che urla due ore in mezzo alla strada e nessuno va là perché sono carabinieri a menarlo, oppure come a Diaz che alla fine nessuno ha pagato. Quando succedono queste cose, no? La garanzia che dopo c'è un processo è quanto dovrebbe. Ma questo ha preso quattro anni, ha preso quattro anni sto carabiniere, non è che l'hanno assolto, ha preso quattro anni quel carabiniere. Ma per carità, ma quattro anni per uccidere una persona, cioè quando te fai parte e rappresenti lo Stato, la pena dovrebbe essere superiore rispetto addirittura a un cittadino normale. Ma non l'ha fatto con la volontà di ucciderlo, però. Fare l'esempio. Ho capito, Parenzo, ma uno spara al ragazzo da dietro in macchina su uno scooter, ma stiamo scherzando, come Gabriele Sandri? Che ragazzi, uno spara per aria e a distanza dei 150 metri lo chiappi nella fronte, ma stiamo scherzando, non prendiamoci per il culo, Caro Luca, i dettagli delle cose non le conosciamo perché non abbiamo seguito bene i processi. Una cosa è certa, che in quelle situazioni... Nessuno è a favore della... Cioè, chiariamo una cosa, nessuno è a favore della morte di quel ragazzo. Sarebbe folle che qualcuno dicesse... Sì, ma io dico una cosa, ragazzo... il poliziotto, il carabiniere si è trovato in una condizione, a meno che uno non possa, non immagini che questo qua ha sparato per paura, non so per che cosa, e in una situazione particolare, con tre persone che non si sono fermate, sia un posto di blocco, un richiamo, eccetera, che sia un inseguimento, pensavano che ci fossero dei latitanti sopra. È partito un colpo. Benissimo, non si deve fare. È morto, ha preso 4 anni. Perché uno deve immaginare... Ma infatti è un carabiniere, non è che può prendere l'ergastolo, dai. È il minimo, di tutti gli episodi che sono successi in Italia. Forse questo è il meno eclatante. Ma ora io mi perdoni il babbo di quel ragazzo di Firenze, che, se non mi ricordo il nome ora. Ma ci sono certe storie, gente che viene malmenata nei centri delle città, che la gente vede, ci sono prove, dopo 5, 6, 7, 8, 9 anni siamo sempre lì. Va bene Luca, Dario Agrigento, vai. Ciao. Dimmi. Beh, guarda, è allucinante. Cosa? Ma sentire parlare il napoletano lì che diceva vado a rubare perché lo Stato non mi dà il lavoro, cioè è una cosa terrificante. Ora, io ho gente con la divisa in famiglia e un sacco di amici che hanno la divisa e moltissimi non sanno la merda con la quale si devono confrontare ogni giorno. Ci sono certi quartieri che sono inavvicinabili e sono esseri umani. E dunque che vuoi dire? Che in qualche modo quel carabiniere che ha sparato è giustificato? No, no, non voglio dire che è giustificato, voglio dire che c'è talmente tanta merda che alle volte saltano i nervi, salta la professionalità, salta tutto e viviamo comunque in uno Stato in cui Carlo Giuliani è diventato un eroe perché stava tirando un estintore in testa a un carabiniere. Cioè, non so se rendo l'idea. Sì, sono cose diverse, però ho capito, sì. Sì, capito, c'è una cosa allucinante. Sono esseri umani, cioè stanno in mezzo alla strada, si confrontano con gente che reputa normale andare a rubare perché non hai lavoro o comunque normale in certi quartieri andare in giro in tre sul motorino, che poi chissà che gente era, dai. Cioè, ma infatti erano persone sicuramente al limite, se non addirittura alcuni pregiudicati o comunque con precedenti, eccetera. No, ma non è che è necessario poi sparare a ogni posto di blocco. Se vedi un motorino con tre persone sopra, bisogna sparare. Ho capito, infatti, ha preso 4 anni. Non ho detto che devono sparare. Ma infatti, però, la lezione che ci voleva dare il padre, che parla di complotti, che bisogna dimostrare, ovviamente. No, ma il padre, poveretto, il padre può dire quel ma ho capito, vuole, ma il padre ha detto che lo Stato non dà il lavoro. Lo Stato non dà il lavoro e dunque è giusto andare a rubare. Dai, familiari, uno può giustificare purtroppo qualunque ma cosa, non che uno dice che non quello che dice. Che non va giustificato è il tifo da stadio che c'è attorno all'uno e all'altra cosa, perché se c'è il tifo bravo il carabiniere che ha sparato, oppure viceversa bravo quello che non si è fermato, perché è quello che si sta creando, perché c'è una parte di Napoli che dice noi siamo contro lo Stato ha ucciso questo ragazzo, c'è una parte di Napoli che questo sta dicendo nei siti, nelle manifestazioni, questo dice, quel ragazzo là è stato ucciso dallo Stato e quindi sta con la si sono divisi in una fazione, questa è la roba che è allucinante di tutta questa storia, e quelli che invece dicono no, bravo il carabiniere, ma come si fa a dire bravo il carabiniere? Ma è una sciocchezza anche quella, bravo il carabiniere, che vuol dire? La giustizia ha detto che è stato condannato a 4 anni perché c'è stato un eccesso nel suo atteggiamento, questo è. Ho 26 anni e non ho mai avuto una dipendenza. Da qualche anno però non posso fare a meno della zanzara. Sei il re della radio, se tu fai video questa radio e io non sento più niente, chiudo, hai capito? Porco, tu devi parlare di miappi, di fighe. Allora amiche. Ma Ma ritorniamo sulle grandi lezioni date in prima, come dire, no? Di prima mattina dal professor Bossi, professor Maurizio Bossi, che bisogna chiamarlo, la settimana prossima lo chiameremo sicuramente, professor Maurizio Bossi, sessuologo. Ripartiamo da capo, a 16 anni ho regalato a mia figlia una scatola di preservativi. Non la mamma. Esempio. Mia figlia, oggi sono nonno, ha 16 anni, ha compiuto gli anni e io ho fatto un regalo. Che regalo ho fatto a mia figlia? Una scatola di profilattici. Cioè, ma papà, ma cosa ne faccio? Impari a srotolarli sulle dita. Non è nulla di particolare, ma è importante la tecnica, perché quel giorno che lo dovrai impiegare, il tuo compagno sarà imbranato. Almeno tu lo saprai, quindi... Beh, è eccezionale, direi. Cioè, prima mattina, Canale 5, il professor Bossi dice che ha regalato. Questo dovrebbero insegnarlo nelle scuole, adesso non è che stare prima mattina. A me lo dici come si usa il preservativo? Anzi, direi di No, io inizierò delle lezioni aiutato dal professor Bossi su come si srotola un preservativo. Non so se sei la persona più adatta. Ma no, assolutamente, questo è per sensibilizzare tutto. Andiamo avanti. Copuliamo in fretta perché gli animali copulano da tergo, senti. E ne penso che noi siamo proprio delle scimmie nude. L'idea della scimmia nuda non è a caso, ovviamente, perché il mondo animale copula in fretta. Come copulano gli animali? Sì. In quale posizione? Possiamo dirlo anche a... Non lo so se ci sono delle grafiche. Da tergo, possiamo dirlo. Che cosa succede? Che l'animale espone le spalle. È scoperto, è aggredibile. E quindi noi che abbiamo questa memoria storica, antropologica, noi... tendenzialmente faremmo come loro. E poi anche sui film porno. Guardate un film porno che è fatto mediamente da un regista maschile. È vero, una noia bestiale. Da un sceneggiatore maschile, una noia bestiale. Perché la nostra mente, con i soliti due neuroni, funziona così. La loro mente, pensavo meno. Cioè la nostra femminile. Femminile è molto meglio, anche perché i due cervelli, destro e sinistro, sono meglio interconnessi. Dobbiamo chiudere, forse facciamo in tempo a Francesco da Roma. Vai Francesco, dimmi. Ciao Cruciani, ciao, buonasera. Ascolta, io sono di Napoli e vorrei sfatare un mito a seconda di quella telefonata che ha fatto prima quel signore. Mi dispiace che gli hanno ammazzato il figlio, però ci sono tanti napoletani che la domenica sera si imbarcano nelle macchine e vanno a lavorare. Non danno la colpa allo Stato, datevi la colpa a voi stessi che non avete voglia di lavorare. Bravo Francesco. Io sto rientrando da Ravenna, sono 23 anni che vado e vengo da Ravenna tutte le settimane. Bravo Francesco, molto bravo. E ora sono a Caglianello. Bravo. Tu e ti sei fatto un mazzo così come autotrasportatore e c'è quel signore di prima, con tutto il rispetto per la morte del figlio, che dice che siccome lo Stato non dà il lavoro e non si capisce perché debba essere lo Stato a dare il lavoro, si è messo a rubare. Ci sentiamo lunedì, ciao. Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.